Questo lunedì 16 gennaio, intanto l'apertura del Sole 24 Ore, l'edizione appunto del lunedì, stretta finale sulla concorrenza, c'è tutto un dossier sulle liberalizzazioni, ma certo la tragedia avvenuta nella serata di venerdì al largo dell'isola del Giglio ancora è l'apertura per molti quotidiani. Per il Corriere della Sera, il grande naufragio per un piccolo favore, questo è il titolo. Per Repubblica, Concordia, una notte di errori e bugie. Per La Stampa, altri due morti, si cerca ancora. E abbiamo sentito poco fa in GR24 che è stato trovato purtroppo un'altra vittima, la sesta, poco fa. Il Giornale, vergogna mondiale, la crociera della morte. Il Messaggero, angoscia per gli ultimi dispersi. Per il Secolo XIX, l'orrore nel ventre del relitto. Mentre l'Unità, i lati oscuri del Concordia. E il Quotidiano Nazionale, l'angoscia e l'eroe. Ne parleremo tra poco alle 7.30. Prima voglio partire da che cosa? Da il Governance Poll 2011. Che cos'è, direte voi, sul Sole 24 Ore? Oggi trovate le pagelle. Le pagelle, come tradizione, ogni gennaio, per tastare il polso della politica locale, per misurare il consenso ottenuto da sindaci, regioni e presidenti di provincia. Oggi a pagina 10 e 11, anzi 12 e 13 a dire il vero, scopriamo chi sono i presidenti di regione, sindaci, presidenti di provincia che hanno raccolto più consensi in questo governance poll. Tra le regioni vince il governatore del Veneto Luca Zaia della Lega, è al primo posto. Zaia sempre in testa in regione, così titola il Sole 24 Ore, con il 60% dei consensi, per la verità un meno 2% calato rispetto all'anno scorso, ma è al primo posto. Davanti al governatore della Toscana Enrico Rossi col 58%, anche lui perde un 2% rispetto all'anno scorso, ma è al secondo posto. Al terzo, per la Sicilia, Raffaele Lombardo. E scrive Gianni Trovati, Raffaele Lombardo, il cui tasso di consenso è volatile come la composizione delle variegate maggioranze che negli anni l'hanno supportato l'Assemblea regionale siciliana. In ogni caso è al terzo posto, poi al quarto posto Caldoro della Campania e Tondo del Friuli Venezia Giulia, diciamo scendendo fino all'ultimo posto, il 17° Abruzzo e Sardegna, con Giovanni Chiodi e Ugo Cappellacci al 46%. Per le province invece in testa il presidente della provincia di Ragusa, Antoci, col 67% dei consensi, mentre per quel che riguarda i sindaci è un trionfo, e questo è il titolo a pagina 13, consensi da record per De Magistris. Dunque il sindaco di Napoli che sfonda al primo posto con il 70% di consensi. In queste pagelle, in questi governance poll per il 2011, quindi per l'anno appena concluso, il sindaco di Napoli è al primo posto al 70% davanti al sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, al 66%, sono i due sindaci novità che hanno vinto alle ultime elezioni con maggiore sorpresa da parte anche degli analisti. Al terzo posto sono tutti e tre sul podio il sindaco di Salerno De Luca, il sindaco di Bari Emiliano e il sindaco di Verona Flavio Tosi, mentre c'è il crollo del sindaco di Firenze Matteo Renzi, che l'anno scorso aveva vinto e perde 14 punti percentuali al 51° posto con il 53% di consensi, aveva il 67% l'anno scorso. Altri grandi sindaci, vabbè, c'è Alemanno, sindaco di Roma, al 54% di consensi e al 35° posto, mentre Giuliano Pisapia è al 76° posto, il sindaco di Milano, col 51,5% di consensi. Cito Pisapia perché proprio oggi a Milano parte, la seconda segnalazione che vi voglio dare, parte l'area C. Alle 7.30 di questa mattina, credo, no? Ci sarà dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, ma non chiedetemi tutti i dettagli, d'altronde se siete di Milano lo sapete, se vi siete informati, se no peggio per voi, e potete farlo. Se volete venire a Milano con la macchina, sappiate che, diciamo, nella zona centrale, la cosiddetta cerchia bisogna entrare con la macchina e si deve pagare, si deve pagare il ticket. L'area C, oggi Giuliano Pisapia fa un'intervista al Corriere della Sera, pagina 27, sarà il nostro trattato di Kyoto, così potremo vivere meglio. Sono tranquillo, abbiamo fatto tutto quanto era possibile. Certo, i primi giorni saremo un po' sulle spine perché l'area C è una novità assoluta, ma nel piccolo è il nostro trattato protocollo di Kyoto. Così dice Maurizio Giannattasio, il sindaco di Milano. Ci saranno degli imprevisti, ci possono essere, mi auguro di no, ma mi auguro che i cittadini, anche quelli che hanno sollevato delle perplessità, abbiano un atteggiamento positivo sapendo che ci sono 60 giorni di tempo per chiarire tutti i dubbi. Perché gli arrabbiati dovrebbero cambiare idea? Chiede il Corriere a Pisapia. Perché siamo consapevoli e convinti che la città avrà grandi vantaggi a partire da un bene fondamentale come la salute. Eviterà morti e permetterà di vivere bene e in maniera meno difficile la città. E poi ecco come Pisapia definisce, a una domanda di Giannattasio, questa, come definirla appunto, lui la chiama un pedaggio, e quella che invece Giannattasio dice non è una tassa sui lavoratori, questa dell'area C, al limite può essere un pedaggio. Il lavoratore che usa l'autostrada per andare sul posto di lavoro paga il pedaggio, chi entra in centro al di là di area C paga già il parcheggio. Quello che sembrava anomalo un tempo, come pagare per parcheggiare per strada, oggi è normale. Posso assicurare però che tutti i proventi di area C verranno utilizzati per il potenziamento della mobilità sostenibile. E poi Pisapia dice: anch'io abito all'interno dell'area C, ma non ci sarà nessuna esenzione né per me né per gli assessori. Quando userò la mia auto non usufruirò di nessun vantaggio rispetto agli altri residenti di area C. Dunque parte questa nuova area per la quale il giornale attacca, eccola, l'ultima tassa della sinistra, il ticket sul traffico a Milano. A partire da 13 secondi fa, le 7:30, 15 secondi, è iniziata l'area C a Milano. Sono le 7:35 minuti, allora i giornali di tutti i quotidiani si concentrano con inviati sulla tragedia del Concordia, il naufragio a poche centinaia di metri dall'isola del Giglio da parte di questa nave, nave crociera della costa. Abbiamo sentito che sono 6 le vittime accertate, la 6ª vittima è stata trovata questa mattina, anche se risultano ancora dei dispersi, ma soprattutto man mano che passano le ore si profila sempre più chiara e drammaticamente banale e incredibile la vicenda e la cronaca di quello che è successo, il motivo per cui il comandante Francesco Schettino si è avvicinato così tanto ai fondali del Giglio e finendo poi per cozzare contro degli scogli che hanno creato questa falla fatale. Guarda la tua isola, è la strage per un gioco. Così titola pagina 2 il Corriere della Sera, la cronaca di Marco Imarisio, pagina 2 e 3. Ed è questo proprio, il gioco, incredibile. Tutto questo per un favore, dicevano le donne sulla panchina al mattino dopo il naufragio. E scrive Imarisio, ora si capisce cosa intendevano con quella frase. La procura è arrivata in fretta alle loro stesse conclusioni. Non è stato neppure un gesto di riguardo per i passeggeri, loro non c'entravano nulla. È stato un gesto autoreferenziale, l'applicazione di un codice di cortesia interno all'equipaggio. L'imperdonabile leggerezza del comandante, la definizione è di Francesco Varusio, procuratore capo di Grosseto, voleva essere al tempo stesso un omaggio a Mario Palombo, una leggenda tra i comandanti della Costa Crociere, e un favore all'unico gigliese a bordo, il capo maître Antonello Tievoli. Mai avrei immaginato di sbarcare a casa mia desto ora ai suoi compaesani che lo hanno soccorso a riva. Tievoli, figlio del vecchio parrucchiere del Giglio, ex ristoratore, gestore di un camping imbarcato 12 anni fa, viene chiamato sul ponte di comando dal comandante Schettino e dai suoi attendenti. Antonello, «Vieni a vedere che stiamo sopra il tuo giglio», gli hanno detto. Forse era anche una presa in giro amichevole, perché il capo dei camerieri doveva scendere dalla nave la settimana precedente, ma non era arrivato al rimpiazzo ed era dovuto restare a bordo. Lui si è affacciato, ha guardato, ha visto. Non ha ruoli in macchina o in coperta, ma ha gli occhi per guardare, ed è stato lui per prima dire «Attenzione, siamo vicinissimi alla riva», ha detto al comandante. Troppo tardi. Insomma, pare che il comandante Schettino avesse voluto omaggiare sia un comandante leggendario della costa, Mario Palombo del Giglio, che oggi fa una serie di interviste, tra l'altro dicendo «Ma che, per esempio, sentite al giornale, non è vero che la Concordia mi salutava, io ero a Grosseto». Non escludo niente, ma nessuno poteva sapere che io ero lì perché non c'ero, ero a Grosseto, se lo hanno fatto pensando che c'ero io non so che dire. La voce può essersi sparsa, ma che ci posso fare? Comunque non essendo lì non posso nemmeno sapere come sono andate realmente le cose. In ogni caso l'inchino, cioè questo, quello che si chiama appunto in gergo il saluto, è una cosa normalissima, ma va fatta in sicurezza, dice il comandante Palombo. Il problema è che in sicurezza evidente la nave non c'era. E anche il secolo XIX punta molto su questo, un disastro per omaggiare il capitano mito del Giglio, cioè è stato fatto questo inchino, vale a dire il passaggio con la nave vicino, ma troppo vicino, assolutamente troppo vicino all'isola del Giglio. Tra l'altro a bordo c'era appunto il capo maître del Giglio, che è stato chiamato dal comandante. Questa è la ricostruzione che sembra ormai verosimile, nella sala macchine, per vedere, guarda come stiamo passando vicino alla tua isola, e ora è successa la tragedia. Ora, racconta sempre Marco Imarisio sul Corriere della Sera, il maître del Giglio è chiuso in casa, abita lontano dall'isola, chi ha parlato con lui racconta di un uomo tormentato dai sensi di colpa per un gioco non voluto e neppure richiesto, che lo ha trasformato in un protagonista a sua insaputa di uno dei più grandi naufragi della storia d'Italia. Sta di fatto che ci sono i resoconti di una cronaca incredibile, per esempio la figura del comandante che ora è sotto inchiesta, Francesco Schettino. Anche qui i giornali sono impietosi. C'è il racconto della guardia costiera al Corriere della Sera, pagina 6. Schettino pretendeva di coordinare l'evacuazione dalla riva. Comandante, racconta Fabrizio Caccia nel suo articolo, lei deve risalire a bordo, è un ordine, non può abbandonare la nave. Così l'ufficiale della capitaneria di porto di Livorno, venerdì notte, incredulo, in sala operativa, davanti alla cieca, ostinata inflessibilità del comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, che poco dopo la mezzanotte era già sugli scogli del Giglio, mentre a bordo il panico imperava e si contavano le prime vittime. Comandante, risalga, ma lui niente. Pretendeva di coordinare l'evacuazione dalla riva, una bestemmia, anzi un reato grave secondo il codice della navigazione. Secondo la procura che l'ha arrestato, lo ha fermato, c'era il rischio anche che potesse fuggire visto i suoi numerosi contatti in giro per il mondo. Tutti i giornali raccontano in maniera dura, insomma, il profilo di questo comandante. E dall'altra parte tratteggiano invece quello che è definito già il nuovo eroe, vale a dire Manrico Gianpedroni di Ameglia, in provincia di La Spezia, capo commissario di bordo della Concordia, continuerà a rivivere nella sua testa le 36 ore passate dentro la nave rovesciata sul fianco, invasa dall'acqua. Racconta a pagina 9 di Repubblica, con un'intervista anche all'ufficiale eroe, definito così, della Costa. Sono scivolato in una buca mentre aiutavo i passeggeri. Tutti raccontano che ne ha salvati tantissimi, ne ha tratti in salvo molti prima di finire in una buca, rompersi una gamba e rimanere 36 ore a urlare ai soccorritori finché sono riusciti a individuarlo, e lui quasi con la voce ormai che l'aveva abbandonato a furia di urlare «sono qui, sono qui», è stato recuperato finalmente visto che aveva una gamba rotta. È stato portato via dal Concordia con un elicottero e lui è definito da tutti unanimemente l'eroe di questo naufragio. Ci sono ovviamente le polemiche, ci sono tantissime pagine che potete leggere, ogni quotidiano ha mandato 4, 5, 6 inviati. Vi segnalo un'intervista al ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, che sulla stampa, pagina 8 e 9, dice «Ora basta, ai colossi del mare nelle aree pregiate del paese. Non ci sono molti commenti da fare, non deve succedere e basta, così dice il ministro Clini. Ci sono regole e limitazioni, ma sono in parte temperate, qualche volta aggirate. È passata la linea che è più conveniente rafforzare l'offerta turistica dal punto di vista della compagnia che non avere attenzione alla zona che si attraversa. Su questo c'è però la polemica, perché anche Fulco Pratesi, uno dei fondatori del WWF, in un intervento al Corriere della Sera dice ora via quelle navi dalle zone marine più preziose, mentre il giornale attacca dicendo ora criminalizzano le navi dei sogni. È l'ultima assurdità, il ministro Clini vuole vietare le rotte vicino alle città e il Codacons affonda la flotta costa. E poi ci sono anche due aspetti magari marginali, ma che in realtà sono emergeranno sempre più importanti nelle prossime ore, sono queste. C'è un tesoro a bordo, lo scafo sorvegliato a vista. Fabrizio Caccia sul Corriere della Sera racconta. Beh, fate un po' di calcoli. C'erano 4.229 persone a bordo, di cui 3.209 passeggeri, molti stranieri. Tutti hanno lasciato soldi, gioielli, vestiti, documenti, un patrimonio enorme stimato milioni di euro a disposizione ora, ovviamente, del mare, chiusi nelle cassette di sicurezza delle cabine, invase tutte dall'acqua e soprattutto con il rischio che ci siano gli sciacalli in agguato. E poi il quotidiano nazionale: tremano ora le assicurazioni, i passeggeri e l'equipaggio chiederanno miliardi di danni. E insomma, questi sono due temi magari che all'inizio, nelle prime ore, sono sfuggiti o comunque non erano urgenti, ma che ora si profileranno sempre più importanti. Insomma, come vedete, un tema molto che è molto ancora ben presente sulle prime pagine dei giornali. Anche Giuliano Ferrara mi ha un po' colpito, tra l'altro alle 8:20 sarà il nostro ospite Giuliano Ferrara. Il suo editoriale del lunedì è dedicato proprio a questo: le crociere assurde, l'eroismo, l'incuranza, la responsabilità personale. Scrive Ferrara: detesto quel modello vacanziero di successo, la grande crociera della città che galleggia. Detesto quelle navi, mi sembrano dei mostri. Non è un giudizio, è un pregiudizio. Non ho niente contro l'esperienza del bello, del piacevole su scala di massa. Non sono uno snob, ma quelle navi mi fanno paura. Insomma, vedete, anche Giuliano Ferrara, che di solito nel suo tema, nel suo editoriale del lunedì, si occupa di politica, di economia, invece si è dedicata a questo tema. Certamente un fatto di cronaca incredibile e una tragedia proprio nelle nostre acque. La politica si apre questa settimana, la settimana è quella delle liberalizzazioni, tra poco andremo sul Sole 24 Ore che si concentra molto su questo tema. La politica oggi fa registrare che cosa? Palazzo Chigi, un pranzo con il premier Mario Monti e i maggiori leader di partito, quelli che i giornali, i giornalisti, i cronisti politici hanno già definito ABC. Alfano, Bersani e Casini, vale a dire PDL, PD e Terzo Polo. Per la prima volta tutti in modo ufficiale, tutti insieme a Palazzo Chigi sotto gli auspici del Quirinale, raggiunti da telefonate formali di invito da parte di Monti, ecco che i segretari di partito della maggioranza che sostiene da novembre l'esecutivo avranno oggi un pranzo di lavoro col Presidente del Consiglio. Così Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, pagina 12. L'ipotesi è anche quella di fare una mozione parlamentare. Sul tavolo c'è il fronte europeo, sul tavolo ovviamente si discuterà anche, immagino, dello schiaffone, come l'ha definito il ministro del welfare Fornero, da parte di Standard & Poor's, da parte delle agenzie di rating che hanno declassato l'Italia e non solo l'Italia. Secondo Repubblica, in questo pranzo Monti vuole una mozione sull'Europa, il fatto che ci sia anche il ministro Moavero degli affari europei, appunto, conferma il tema dell'incontro sollecitato dallo stesso Monti. L'obiettivo del premier, scrive Repubblica, non è quello di una semplice informativa sul nuovo trattato in gestazione. Lo scopo è riuscire a strappare ai leader della sua maggioranza il sì a una mozione comune in Parlamento da far votare prima del decisivo Consiglio europeo del 29 gennaio. Insomma, un Monti che chiede formalmente l'appoggio da parte dei partiti che sono i partiti che costituiscono l'ossatura, insomma, del Parlamento e dunque hanno i numeri per per sostenere appunto il governo Monti. A proposito di liberalizzazioni, come dicevo prima, è la settimana certamente decisiva. L'obiettivo di Monti e del suo governo è quello di portare liberalizzazioni a questa settimana, il 19 gennaio probabilmente, comunque la settimana decisiva per cercare di dare questa svolta sul tema liberalizzazioni, su cosa? Energia, gas, poste, farmacie, professionisti, mutui, ferrovie, trasporti, carburanti, assicurazioni, insomma il panorama è molto molto ampio, le categorie, molte categorie lo sapete sono già sul piede di guerra, domani il governo incomincerà dai tassisti a incontrarli. Scrive il Sole 24 Ore, si apre la settimana delle liberalizzazioni dopo tanti annunci. Giovedì dovrebbe il governo presentare il decreto legge sulla deregulation, che conterrà interventi a 360 gradi appunto nei settori che ho citato. E tra l'altro Antonello Cherchi a pagina 3 racconta di come è una svolta che, se noi la prendiamo dal punto di vista di una giornata, di un italiano che si sveglia, e beh, ogni gesto che facciamo da quando ci svegliamo è legato al tema liberalizzazioni. Per esempio, già col mettere il piede fuori dal letto e iniziare a accendere la luce, aprire il rubinetto dell'acqua o mettere il caffè sul fornello, gesti quotidiani che riguardano energia elettrica, gas e acqua per l'appunto. E poi usciamo, i trasporti, prendiamo la macchina, prendiamo il treno, prendiamo il taxi, prendiamo i mezzi, insomma gli autobus, insomma tutti i settori molto molto delicati sul quale il governo Monti si gioca ovviamente anche gran parte del suo futuro, questa detta di tutti gli analisti. Liberalizzazioni anche per energia e banche, così titola a pagina 17 il Corriere della Sera. Insomma, la settimana politica sarà dominata da questo tema. C'è anche un altro tema politico per chi vuole interessarsi sulla vicenda della Lega. Ieri Maroni, da Fabio Fazio, ha definito una sorta di fatwa quella che Bossi ha scaricato su di lui, il divieto di incontrare i militanti, una fatwa che peraltro è rientrata. Notizia di cronaca, beh, sarebbe stato preso, un nomade di origine serbo-bosniache dal nome Gojko Jovanović, 24 anni ma delle mille identità, colui che avrebbe ucciso, perché è ancora sospettato, ma i sospetti sono sempre più forti, dovrebbe essere l'autore dell'omicidio terribile nei confronti del vigile urbano a Milano, quello che lo ha fermato per un controllo ed è stato travolto con la sua bicicletta e trascinato per 300 metri a Milano. Preso il pirata del SUV dai mille alias, racconta il Corriere della Sera, pagina 25, è stato trovato in Ungheria, stava per andare in Serbia e da lì forse in Sud America. Tra l'altro c'è una vicenda che il Secolo XIX racconta, pagina 10, che è questa. Aveva tanti nomi diversi, aveva dato tante identità diverse, aveva anche una volta, per esempio, aveva intestato questo SUV a un prestanome. Ora si scopre che era una donna italiana di 40 anni che lavora per un'impresa di pulizie e che per difficoltà economiche aveva ceduto il suo documento per l'atto sul pagamento di 200 euro. Cioè una donna che per avere necessità di 200 euro aveva venduto la sua identità di fatto e quindi risultava la proprietaria di questo SUV che ha ucciso, col quale questo serbo avrebbe ucciso il vigile di Milano. Trovate due segnalazioni per concludere. Tanti articoli sulla morte di Carlo Fruttero, lo scrittore che con Lucentini ha avuto il suo grande successo, è morto e ci sono sia Ezio Mauro, direttore di Repubblica, Massimo Gramellini, vice direttore della Stampa, ve li segnalo solo così se li volete trovare come articoli che ricordano la grande figura di Carlo Fruttero, scomparso a 85 anni. E che dire, bisognerebbe parlare anche del calcio, insomma questo impone il lunedì. Il titolo della Gazzetta dello Sport, saluto tutti gli interisti che mi hanno mandato sms, urlo Inter, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, ma d'altronde Peter Bescapè dice che il football americano va benissimo per quel che li riguarda. Per quel che riguarda me, la Pro Sesto non ha ancora ripreso il campionato, in promozione, anzi in eccellenza, scusate, nel girone A della regione Lombardia. Dunque il calcio è questo che conta. Per chi invece segue la Serie A, urlo Inter è il titolo della Gazzetta. Ci fermiamo, il giornale radio.